Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi vi propongo un modo insolito per accostarci a personaggi famosi, soprattutto della letteratura, e anche una chiave curiosa per individuare degli oggetti che chissà potrebbero anche risultare utili nella ricerca dei vostri regali di Natale, collegando appunto questi oggetti a dei famosi personaggi. Il libro si intitola I piaceri dei grandi e l'autore Giuseppe Scarafia, pubblicato da Sellerio, 246 pagine, 13 euro. Questo libro praticamente è un catalogo in molte voci per esplorare attraverso oggetti, personaggi e comportamenti la personalità di molti uomini celebri, colti proprio nel rapporto con quella voce. Per esempio, se dite caffè, saprete cosa pensava della bevanda Talleyrand, piuttosto che Proust, Flaubert e tanti altri illustri scrittori. Interessante nel libro anche la premessa, intitolata Arredare il vuoto. Secondo Scarafia, infatti, l'attaccamento spasmodico, spesso morboso a qualche oggetto o a qualche fissazione, è una sorta di nevrosi che dimostra la perenne ricerca di un antidoto alla scomparsa. Scarafia scrive: ancor più di quel che si ottiene, e ottenere qualcosa è necessario, altrimenti si impazzisce, bisogna essere grati di quel che ci viene fatto intravedere con ciò desiderare. Non essere delusi dalla sua inafferrabilità, ma desiderare di desiderare, è la sola cosa in grado di distrarci dall'angoscia della morte. E su questo sentiamo l'autore. Buongiorno a Giuseppe Scarafia. Buongiorno. Giuseppe Scarafia, allora lei parla nell'introduzione del libro del rapporto di questi grandi personaggi con degli oggetti, delle persone, degli atteggiamenti, dei comportamenti, come una sorta di nevrosi per sentirsi in vita sostanzialmente, mi pare. Sì, assolutamente, perché devo dire che quello che ho visto riguardo appunto alla vita di questi geni, di queste persone straordinarie, è la loro grande sensibilità a tutti gli aspetti più piccoli della vita, la loro capacità di trasformarli in altrettante occasioni di piacere, di distrazione e di divertimento. Ecco, in questo approfondimento qual è stata la scoperta più sorprendente? Ma la cosa che mi ha più stupito è stata la grande passione di Virginia Woolf per lo champagne, che le dice questo vino giallo e parla della schiuma dello champagne, di questo piacere che se uno non l'affronta con l'immagine classica di Virginia Woolf, questo viso bellissimo dal taglio neoclassico e quest'aria severa, proprio non se l'aspettava. Ma è una solo delle tante sorprese, no? Come Joyce che prepara il cioccolato caldo per gli amici che vengono a trovarle, o Henry James che si diverte a passeggiare nel suo minuscolo giardino, quasi un orto, come se passeggiasse in un parco. Qualche settimana fa abbiamo ricordato di Virginia Woolf la passione per il denaro che lei stesso ammetteva. Virginia Woolf è molto sincera, anche il suo snobismo, no? Di cui lei si prendeva in giro, però che aveva effettivamente. È un caso veramente strano, perché da un lato abbiamo, no, tutte le grandi nevrosi, abbiamo il fatto che lei per esempio detestava occuparsi d'abbigliamento, poi invece la vediamo avida di tutte le piccole gioie della vita. Ecco, quello che vedo dall'esperienza di questo libro è che tutti questi personaggi d'eccezione, che poi assomigliano ovviamente straordinariamente a noi, al lettore, hanno l'idea che la vita non possa essere luogo in cui si raggiunge una felicità suprema, ma che mettendo assieme un mosaico di tanti piccoli piaceri, di tante piccole felicità, di tante piccole soddisfazioni, se ne possa comporre una grande. Che è una cosa molto diversa dalla bulimia consumistica. Assolutamente, non c'è, ecco, sono persone che guardano vicino a sé, tanto nelle opere guardano lontano da sé, guardano verso il futuro, parlano con grande pubblico, tanto nella vita sanno gustare appunto questi piccoli confronti con il mondo, che sia un albero, no? Jean Genet chiamava moltissimo gli alberi, che vedeva quasi come persone, che sia una qualsiasi cosa fuggevole, un fiore all'occhiello, frammenti di essere. Ecco, come ha fatto a raccogliere tutti questi particolari? Ha seguito le rubriche di gossip dell'epoca? Come ha fatto a sapere tutte queste cose strane su questi personaggi? Dunque, è il risultato di una mia mania. Da un po' di tempo, faccia conto da una, non so, una decina d'anni, ogni volta che leggo un libro schedo dietro, scrivo, perché ormai ho capito che i libri mi sopravviveranno e quindi non ho pietà e scrivo nelle ultime pagine, faccio un indice mettendo, non lo so, cioccolato, crociera, valigia, e poi a un certo punto ho avuto quest'idea che effettivamente potessero dare un punto di vista nuovo, però diciamo sullo scrittore e sulla vita, però è nata da una mia mania personale. Ecco, un oggetto che manca, e devo per forza sottolinearlo in questa rubrica, è il libro. Come mai? Il libro mi sembrava, confesso, però se farò un secondo volume lo metterò. Effettivamente, mi sembrava troppo scontato per gli scrittori, però mentre lo dico, mentre la stavo sentendo, pensavo che veramente invece no, pensavo a Stendhal che per esempio aveva questo rapporto con i libri, incollava delle pagine in mezzo, oltre ovviamente a scrivere dappertutto, a Proust che con una matita verde è intervenuto sui pensieri di Pascal, quindi sì, no, sono cose diverse, faccio ammenda. Aspettiamo la prossima edizione. Senta, grazie. Invece nel libro ci sono oltre che delle cose anche degli atteggiamenti, per esempio il senso di colpa, questo è un atteggiamento diffuso oggi, cosa pensa lei? Ma purtroppo il senso di colpa, che era il grande condimento del peccato, sta svanendo. Diciamo che oggi il senso di colpa è di non fare abbastanza violazioni, di non avere abbastanza sesso, abbastanza amori, si è rovesciato, diciamo, rimane ma in questo modo così un pochino arido, non è più il senso di colpa verso una persona, ma è il senso di colpa verso un ideale di dissipazione sessuale che ormai è diventato diffusissimo. Ecco, però poi c'è la dieta che in questo periodo, da ora in poi, incomberà sul senso di colpa di molti di noi. Quello è il vero peccato, i peccati di gola, ecco, ormai sono quelli per cui si ha rimorsi, quelli che uno sogna, quelli cui si cede magari una notte in cui si sveglia improvvisamente, tutto quello che era riservato al sesso, che adesso è diventato un dovere, è passato alla gola. E da questo punto di vista chi sono i personaggi più interessanti della sua analisi? Lei a un certo punto parla di per esempio di Lord Byron, che era molto attento alla linea. Beh, Lord Byron era veramente in questo senso attualissimo, perché dunque lui inizia la sua carriera come grassoccio, poi eredita il titolo e fa una grande cura dimagrante. E da allora sarà sempre questa altalena, per cui tra l'altro si è rovinato il fegato cibandosi di limoni e di aceto. Però ecco, ogni tanto non ce la faceva e allora faceva una mangiata formidabile. Dopodiché si pentiva e ricominciava, e questo secondo me ha giocato anche una parte notevole nella sua morte durante la guerra per la liberazione della Grecia, quando appunto è morto di mal di pancia, di diarrea. Si fa un cenno anche al nostro Gad a questo punto? Assolutamente, Gad ha questi rapporti col cibo, ecco, e soprattutto a me quello che mi ha più colpito è stata la golosità di Leopardi, ecco, questo suo buttarsi sul cioccolato, questo rapporto erotico col cibo che ho trovato molto, molto carino. Ecco, poi ci sono anche dei personaggi, per esempio la chiromante, che cosa hanno fatto questi personaggi per conquistare l'attenzione e la fiducia di tanti scrittori? Lo scrittore cerca sempre, diciamo, l'uscita improbabile, l'angolo oscuro della vita, però ecco, secondo me è emblematico il rapporto di Proust con la chiromante. Lui va a trovare questa chiromante appunto molto rinomata a Parigi, che dopo avergli esaminato la mano dice: ma no, non sono io a doverle dire delle cose, ma è lei che deve spiegare me. Bene, grazie a Giuseppe Scarafia, autore dei Piaceri dei Grandi. Buona domenica. Grazie. Una delle voci del catalogo di Scarafia è dedicata al tatuaggio. Scarafia scrive che a volte il tatuaggio è una questione di pudore e aggiunge che nonostante la sua crescente popolarità e l'adozione da parte delle star di Hollywood, il tatuaggio, questa stenografia dell'anima, secondo Corino Conti, resta un gesto apertamente e silenziosamente provocatorio. Allora vi segnalo Il cuore della pelle, arte e dolore del tatuaggio in 22 racconti dal mondo, è pubblicato da EDT, 284 pagine, 18,50 €. Questo libro è curato da Benedikt Goylen, che è un libraio tedesco, da Peter Graf, che è uno scrittore svizzero, e da Markus Seibert, che è uno scrittore tedesco. Il tatuaggio è una pratica di origine barbarica, una sorta di rito di iniziazione, oggi certo banalizzato nel consumo di massa, che ha dato vita però a un vero e proprio filone letterario. E nel libro troviamo la testimonianza di questo nesso fra il tatuaggio e la letteratura con 22 racconti, alcuni di autori molto celebri come Bradbury, Plath, Raballo, Connor, Irving e Melville. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parliamo adesso, visto il periodo, di Strenne, e comincia a segnalare agli appassionati di sport un libro pubblicato da Rizzoli, Le prime pagine della Gazzetta dello Sport, curato da Elio Trifari e Franco Arturi, 544 pagine, 85 euro. In questo libro, in questo grande libro illustrato con la riproduzione di tutte le prime pagine appunto del quotidiano sportivo, troviamo in 8 capitoli la storia del giornale, che si svolge dal 1896 fino alle ultime Olimpiadi di Londra, una storia che diventa anche storia dello sport e del suo impatto sociale. Ogni periodo è aperto da una presentazione, da una cronologia che rievocano i fatti salienti di quegli anni. È un capitolo in particolare dedicato ai due grandi direttori che hanno profondamente rinnovato l'informazione e il linguaggio della Gazzetta dello Sport, cioè Gino Palumbo e Candido Cannavò. Con loro naturalmente viene ricordato anche Gianni Brera, che fu anch'egli direttore della Gazzetta dello Sport, ma che viene giudicato dai curatori come un ineguagliabile inventore linguistico, uno scrittore, un raccontatore, un polemista, mentre gli altri due, Palumbo e Cannavò, non sono stati dei battitori liberi come Brera, ma hanno fatto una scuola, hanno dato vita a un modo di costruire il giornale che è rimasto molto importante. Palumbo aprì le finestre e il giornalismo non fu più lo stesso, scrivono i curatori. Cannavò, più del suo predecessore, tende a identificarsi con la Gazzetta, che sente come una famiglia, con un orientamento ai valori di fondo dello sport. E passiamo adesso alle arti visive, cominciando dalla fotografia. Vi segnalo che è uscito il secondo volume della serie Schirà dedicata alla storia della fotografia. Questo nuovo volume si intitola Una nuova visione del mondo e abbraccia il periodo tra il 1891 e il 1940. Il libro è curato da Walter Guadagnini e i testi sono di Jerry Badger, Clément Cheroux, Sandra Phillips, Ulrich Pohlmann e Francesco Zanot. 336 pagine, 60 euro. Le traduzioni sono di Barbara Venturi, Melanie Traini e Marcella Mancini. Come nel volume precedente, troviamo gli scatti più famosi dell'epoca presi in considerazione, inquadrate da una presentazione critica. Cominciano in questo periodo le grandi mostre fotografiche, appaiono le prime foto in grado di simboleggiare un'epoca, si afferma attorno alla fotografia una riflessione collettiva che lega l'evoluzione della fotografia alle avanguardie e al rapporto che queste hanno avuto nella storia d'Europa con i movimenti rivoluzionari. Un altro volume dedicato alla fotografia è quello di un italiano, Gabriele D'Autilia, che studia proprio la fotografia italiana. Si intitola Storia fotografica in Italia dal 1839 a oggi. Questo è pubblicato da Einaudi, 430 pagine, 32 euro. Questo libro, spiega l'autore, vuole raccontare una storia della fotografia italiana che narri la vicenda di uno straordinario strumento tecnico di espressione di conoscenza, tenendo conto sia sul piano storico di cosa la fotografia ha raccontato della storia d'Italia, sia sul piano storiografico di quali storie è espressione la storia della fotografia, dunque della storia sociale, della mentalità, delle rappresentazioni simboliche del territorio. E quindi abbiamo una storia sociale che ci permette di ricostruire come è stata vista, rappresentata, simboleggiata la storia del nostro paese attraverso momenti e figure che in effetti hanno contribuito a formare anche dei miti collettivi, come quello del paparazzo di cui ci parla in queste righe Gabriele D'Autilia. Il 1960 è l'anno in cui Federico Fellini, con La dolce vita, spiega al mondo un fenomeno fotografico tutto italiano. Per le riviste più scandalistiche come Crimen, Cronaca Nera, Settimo Giorno, La Settimana Incom Illustrata, avevano lavorato fotografi talmente particolari che avevano finito per costruire una categoria a sé, i paparazzi. Inizialmente chiamati scattini, rappresentavano una versione del mestiere di fotogiornalista che esasperava le sue caratteristiche intrinseche. L'inevitabile invadenza diventava con loro intrusione, l'indagine speculazione. Sull'etica del fotografo si organizzò nel 1961 a Lignano Sabbiadoro un convegno che ribadì il rispetto per la dignità dei soggetti. Il prototipo è il romano Tazio Secchiaroli, allievo di Porri Pastorel e gestore con Elio Sorci della Roma Press Photo. Molti fotografi di cinema in questi anni sono scattini che provengono dalle borgate e che si illudono di essere illuminati dall'aura dei divi e dell'ambiente. Il cinema, tuttavia, negli anni impetuosi delle comunicazioni di massa, non è solo il set. Paparazzi, oltre a Secchiaroli, sono Sergio Spinelli, Velio Cioni, Marcello Geppetti, Elio Sorci. Una sua fotografia di Richard Burton e Liz Taylor vince negli Stati Uniti nel 1963 il primo premio per la fotografia più pagata al mondo. che per sorprendere le loro vittime nelle serate romane usano flash elettronici montati sulle maneggevoli Rolley Flex. È un mestiere sporco e violento, quello del paparazzo, ammette Secchiaroli in un articolo su Epoca nel 1958. Ma è fatto così. La concorrenza, sempre più spietata, non ci consente di essere delicati. Questi fotografi non possono farsi sfuggire l'occasione. Sono giovanotti che giocano a una caccia che si fa in branco per rimediare soldi. Poi sta al singolo riuscire ad arrivare alla redazione prima degli altri. Ma se è un gioco, è un gioco delle parti. Gli attori vanno in via Veneto per farsi fotografare e certe risse sono messe in scena. E veniamo invece alla pittura con un libro di Philippe Daverio, Museo immaginato, il secolo lungo della modernità, Rizzoli, 544 pagine, 39 euro. Questa è, come la definisce l'autore stesso, è una bizzarra raccolta di idee e immagini. Troviamo molte idee, troviamo molte immagini, in effetti, e troviamo un percorso strano, insolito. La pittura, dice Daverio, è la più costosa delle cose raccoglibili. E allora si parte nel libro dal celebre ritratto di tre personaggi presso una tavola imbandita di Edouard Manet, tra i quali spicca un giovanotto che per Daverio sembra davvero indistinguibile rispetto a certi giovanotti un po' pieni di sé che potrete trovare al ristorante oggi. Questo vale, dice Daverio, per la pittura. Se lo stesso personaggio fosse stato ritratto nella fotografia, per rifarci al tema di cui abbiamo parlato fino a pochi minuti fa, quel personaggio che ci appare eterno e contemporaneo nella pittura apparirebbe invece datato. E in queste righe, appunto, Daverio ci spiega come si è sviluppato il rapporto tra pittura e fotografia. Lo stesso giovanotto, se lo vedessimo in una fotografia, sembrerebbe fortemente datato. Basta in questo senso paragonare i due ritratti di Manet, quello che gli fa Nadar in fotografia, eccellente ma lontano come se fosse un'immagine funebre, e quello che gli fa Carlos Duran in pittura, assolutamente olfattivo e percepibile. La fotografia spera allora, quando non ha ancora scoperto la sua strada vera e definitiva, di essere la risposta a ogni questione verista o naturalista, ed è già allora sorpresa nel suo errore. All'opposto, è la pittura che scopre le lenti e le applica alla composizione, come nel quadro della pioggia a Parigi di Caillebotte, dove il paesaggio va ben oltre il prisma ottico tanto utile a Canaletto e a Bellotto, e si lascia invece descrivere da un fisheye ante litteram, con la capacità di restituire il senso del pavé scivoloso. È interessante in questo caso vedere anche l'effetto di controluce sul viso dei due personaggi in primo piano, come se fosse già esistita un'illuminazione da flash fotografico per controbilanciare la luce naturale. La pittura impara molto dalla fotografia, impara a mutare il suo ragionamento, a tal punto che nel 1901 Giacomo Balla, artista curioso e sperimentale per eccellenza, dipinge la signora romana lasciando il contrasto, tipico della foto, fra primo piano oscuro e fondo bruciato dalla troppa esposizione. Poi, già che c'è, dipinge anche il mosso dei piedi, come se la signora avesse cambiato posizione durante lo scatto. In questo gioco della pittura, che ingloba il linguaggio della fotografia, sta una delle basi del successivo futurismo. E il volume allora è costruito come l'illustrazione di una sorta di museo ideale di cui Daverio ci fornisce il progetto con i suoi stessi schizzi, le piante, il piano di gestione e naturalmente i contenuti che sono raccolti nelle varie sale, per esempio politica, sentimento, storicismo, lavoro e tante altre voci. Sempre in campo artistico vi segnalo un libro che ci parla del Natale, è il libro di un padre gesuita, esperto di arte anche perché direttore della Galleria San Fedele di Milano e della Raccolta Lercaro di Bologna, Andrea Dell'Asta, che con San Paolo pubblica Nascere, il Natale nell'arte, 140 pagine, 13,50 euro. Parlare di natività è sempre più difficile, nota padre Bartolomeo Sorge nella sua prefazione, e il suo più giovane collega lo fa ripercorrendo appunto il nesso tra natività e arte. Si parte dall'icona di Rublev e poi si toccano tanti altri capolavori fino ad arrivare ai giorni nostri, passando da alcuni capolavori dell'arte occidentale come per esempio la natività di Caravaggio, che è custodita nel Museo regionale di Messina. Una natività che ispira a Dell'Asta questi commenti. Il Rinascimento collocava la natività in uno scenario principesco, fatto di nobili architetture, di rovine antiche, di personaggi dai tratti aristocratici che si stagliavano su splendidi paesaggi. L'adorazione dei pastori, invece, avviene in un luogo povero, in una stalla, dove c'è ricchezza, sembra dirci Caravaggio, non c'è posto per l'accoglienza dell'altro. E Gesù ne fa immediatamente esperienza. Se è vero che l'Evangelista Matteo riferisce che Giuseppe e Maria non riescono a trovare un riparo, Dio si rivela negli spazi della povertà umana. Ad accoglierlo sono semplici pastori, coloro ai quali non si dà affidamento, fiducia. Dio ha scelto gli esclusi della storia per annunciare la buona notizia. Egli sa bene che l'uomo ricercherebbe il suo messaggio negli annunci dei sapienti, di coloro che hanno grande credibilità, fascino e potere, ma le mani dei poveri sono vuote per poter accogliere il bambino. Caravaggio dipinge i pastori come uomini semplici, umili e rudi, ma pieni di dignità, di nobiltà morale, e riporta la nascita di Gesù in un ambiente povero, semplice, umile, con della paglia sparsa per terra. Una stalla, dove si intravedono sulla parete di fondo le masse di un asino e di un bue. Dio nasce tra noi, non nelle viscere della terra, ma nel mondo dei semplici, perché la buona notizia è alla portata di tutti. Venire al mondo significa essere accolti, nascere e essere chiamati. Qualcuno ci chiama alla vita, a un incontro in una comunità, nella fiducia. E non ci può essere vita se non c'è accoglienza. In questo spazio non ci sono parole. Il Cristo è la parola. E tutto si risolve in uno scambio di sguardi. In una pittura fatta di silenzi, Caravaggio compie una riflessione sul senso della vita umana. E a questo punto... il confettino. Vi segnalo un classico intramontabile ma irrinunciabile in queste giornate di Natale, cioè il canto di Natale di Charles Dickens, nell'edizione di PM, 172 pagine, 11 euro, nella traduzione di Alessandra De Vizzi, con le illustrazioni di Fabio Visintin, 172 pagine, 11 euro. Ci sono tre buone ragioni per rileggere ogni Natale questo libro, ci spiega Alberto Melis nella prefazione. Il primo, che è un bel libro; il secondo, che è un libro divertente; e il terzo, che l'uomo che l'ha scritto, Charles Dickens, non è soltanto uno dei maggiori scrittori di ogni tempo e di ogni paese, ma anche un uomo che da adulto non ha mai dimenticato che cosa vuol dire essere un bambino o un ragazzo. I bambini e i ragazzi troveranno qui anche delle preziose note, o meglio dei rimandi, che permetteranno loro di calarsi veramente nella Londra di Scrooge. Segnalo poi un'altra edizione dello stesso libro, questa raccontata da Ianna Carioli, Il canto di Natale, è pubblicato da Giunti Junior, 7,90 euro, 132 pagine. E con questo ringrazio Luca Cremonesi in redazione e Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare sempre questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento alla settimana prossima.